9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 1 giugno. Il tema del giorno trae in qualche maniera spunto anche dalle parole del governatore Mario Draghi di ieri, che ha parlato delle giovani generazioni nel nostro paese come di una generazione da salvare, di coloro che hanno meno diritti rispetto agli integrati ipertutelati nel mercato del lavoro, per loro quindi meno reddito disponibile, più lungo nel tempo il periodo dell'inserimento, minore quota di reddito da destinare all'acquisto di case per mutui, più difficile e più lungo nel tempo l'impegno con la creazione di stabili nuclei familiari. Anche di tutto questo, soprattutto di tutto questo, è figlia la denatalità che colpisce il nostro paese oramai da molti decenni, con un tasso di sostituzione demografica insufficiente per oltre un terzo a garantire l'equilibrio dei nostri conti intergenerazionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che per il basso numero di figli per famiglia nel nostro paese, nel 2009 noi abbiamo avuto bisogno di 180.000 nuovi ingressi nel nostro paese di lavoratori immigrati, nessun problema, ma basta sapere che è così, per garantire l'equilibrio dei conti contributivi rispetto alle prestazioni effettuate. E se rimane questo tasso di natalità nel nostro paese, noi dobbiamo sapere che in proiezione con gli attuali tassi di sostituzione demografica, nel prossimo ventennio noi avremo bisogno in media di un numero crescente di immigrati anno per anno, volto a sostituire il minor numero di giovani, per il minor numero di nati nei 25 anni che abbiamo alle nostre spalle, per reggere i conti previdenziali. Quindi avremo bisogno in media per 20 anni ogni anno di 300.000 nuovi ingressi aggiuntivi, per un totale di 6 milioni di persone. Non faccio questa questione di numeri per sollevare il problema dell'immigrazione, nessun problema. Dico solo che nel nostro paese di che cosa è figlia questa cultura della denatalità? Forse del fatto che gli italiani da 30 anni a questa parte hanno improvvisamente alimentato un odio per i bambini? No, neanche per idea. È figlia, dicono tutti gli studi comparati più seri italiani e internazionali, di una somma di disincentivi pubblici alla natalità e alla famiglia, di cui primo di lista è l'effetto del nostro sistema fiscale. Il nostro sistema fiscale da decenni ha abolito il cumulo dei redditi, esiste solo l'individuo nel nostro ordinamento di fronte al fisco, a differenza di quello che avviene in molti paesi dove si può fare la scelta tra un regolamento di conti, per così dire, fiscale con lo Stato individuale di famiglia, con un cumulo o totale o parziale. In America si possono scegliere quattro diverse possibilità. Paesi continentali, quindi del tutto paragonabili a noi per diritto e per ordinamento fiscale, come la Francia e come la Germania, ma oggi parleremo soprattutto della Francia, hanno una politica fiscale molto più tagliata a favore delle famiglie. E l'esempio, per via delle deduzioni crescenti per numerosità familiare, che da solo rende l'idea della distanza siderale tra un ordinamento come quello francese, dove pure lo Stato è forte, la spesa pubblica è forte, non stiamo parlando di un paese liberista, e quello del nostro paese, è dato dal fatto che in Francia, pensate, una famiglia con quattro figli e con reddito dipendente riesce a pagare praticamente 0 euro di tasse allo Stato, mentre da noi la famiglia con lo stesso ordine di redditi e con quattro figli paga 5.700 euro. Questa è la differenza di fondo, una differenza che picchia nei bilanci familiari. Ovviamente era un conto del tutto approssimativo, ma maggiore la numerosità, maggiore diventa il disincentivo fiscale nel nostro ordinamento. Di fronte a questo non parleremo solo del tema generale, il quoziente familiare, che spesso riaffiora e di fronte al quale i ministri dell'economia hanno una diffidenza che deriva dal fatto che la sua applicazione integrale secondo il sistema francese potrebbe comportare un gettito inferiore di diversi miliardi di euro, e quindi bisogna sempre salvaguardare i saldi. Ma parleremo invece di un esempio concreto Questo esempio concreto è quello che viene negli ultimi anni dalla città di Parma. La città di Parma ha detto: bene, in attesa che cambi l'ordinamento fiscale nazionale, intanto noi introduciamo un quoziente familiare diverso nella nostra città, più favorevole, marcatamente favorevole, in controtendenza alla famiglia e alla numerosità dei figli. Parma ha radicato questo suo esperimento fino al punto da farne la proposta di una vera e propria piattaforma per la famiglia, condivisa con altri quattro comuni fondatori di un network per la famiglia. In questo network per la famiglia hanno cominciato ad aderire diversi comuni italiani, diverse decine di comuni italiani, che insieme propongono il loro esempio concreto come battistrada per una politica fiscale che a livello nazionale possa assumere questa svolta come un obiettivo fondamentale in vista della tutela di quella generazione di giovani che altrimenti è tagliata fuori, come ha detto il governatore, da un futuro stabile e garantito di contributo crescente alla solidità dei conti del nostro paese. E di questo parleremo oggi. Diteci come la pensate da casa all'800 24 00 24 di fronte a questo esperimento, e se siete d'accordo, per l'esperienza che avete anche negli altri paesi, su una svolta comunque su questo punto, anche a prescindere da tutto il resto, perché senza famiglie in grado di garantire una continuità è difficile pensare a un paese più giusto. Iniziamo a parlarne con Alessandra Casarico, che è direttore di Econpubblica, centro di ricerca sull'economia nel settore pubblico della Bocconi, professore associato di scienza delle finanze in Bocconi. Buongiorno professoressa Casarico. Buongiorno. Ecco, di fronte alle remore, diciamo così, del fisco a livello nazionale per una svolta che, se adottata, avrebbe, temono i ministri, effetti troppo pesanti sul gettito raccolto, che cosa si può dire? Questa preoccupazione di rigore è proprio così fondata o maschera altro? Allora, sicuramente c'è un problema di gettito, però vorrei sottolineare anche un altro problema che forse, a cui forse lei non ha ancora fatto accenni. Io sono sicuramente favorevole al fatto che qualcosa debba essere fatto in Italia per sostenere le famiglie, per sostenere la spesa per le famiglie e consentire un recupero della fecondità. Il problema dell'adozione del quoziente familiare, dal mio punto di vista, senza fare alcuna considerazione sul gettito, è legato all'impatto che l'adozione di una modalità di tassazione di questo tipo può avere sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Come sottolineava lei prima, il meccanismo del quoziente familiare si basa sul cumulo dei redditi e ovviamente è più favorevole per le famiglie numerose, e questo può essere un aspetto professoressa positivo. La interrompo per dire, questa è l'obiezione, ne abbiamo già parlato, che gli amici della voce.info hanno fatto e fanno, anche recentemente è riapparso in un libro di cui abbiamo parlato, di Andrea Ichino e di Alesina, in cui si dice il quoziente avrebbe questo effetto secondo noi sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, che è una componente essenziale invece a cui bisogna mirare. Faccio presente che noi siamo 17 punti sotto di occupazione rispetto a quella femminile tedesca, e loro propongono la detassazione selettiva per favorire le donne alla partecipazione al mercato del lavoro. E questo lo abbiamo già toccato, questo argomento, più volte, quindi mettiamolo, ecco, da una parte. Ecco, quindi allora, è giusto citarlo. Questa è una questione. Volevo solo aggiungo una cosa che non so se sia stata già detta o meno. Nei paesi e anche nelle regioni dove le donne partecipano di più al mercato del lavoro, la fecondità è più alta. Esatto. Okay? Quindi bisogna stare attenti a questo, cioè se l'adozione del meccanismo del quoziente familiare è puntata su un recupero della fecondità, gli eventuali effetti negativi che può avere sulla partecipazione femminile, dobbiamo stare attenti che poi non impattino sulla fecondità stessa. Quindi abbiamo più volte ricordato che l'esperienza di paesi europei, quindi a noi vicini per l'organizzazione del mercato del lavoro, dimostra che più fecondità e più partecipazione delle donne al mercato del lavoro vanno di pari passo. È infondato l'argomento biecamente maschilista per cui, ma insomma, quante ne vogliono lavorare, i diritti sul lavoro, e poi vogliono pure l'aiuto per fare i figli. È infondato, perché l'esperienza dei paesi finanziari ci dimostra l'esatto contrario. Un'altra cosa, lei richiamava l'esempio della Francia prima. È vero che in Francia c'è il quoziente familiare, le donne partecipano di più, i tassi di fecondità sono più elevati rispetto a quelli del nostro paese, ma la Francia ha anche un approccio completamente diverso nei confronti della spesa per le famiglie. La spesa per le famiglie in Francia è circa il 3% del PIL, noi siamo poco al di sopra dell'1%, quindi l'idea di partire dall'appunto fiscale può andare bene nella misura in cui però si adottano anche altre misure che sostengono sostengono la partecipazione femminile, la fecondità, tramite il meccanismo della spesa. Da noi fare questo passo del quoziente familiare senza sostegno, diciamo, dal punto di vista della spesa, lo vedo onestamente come un punto problematico. Diciamo che la professoressa Caderico ha dato una mano potente a non farlo il quoziente familiare, perché ha chiesto spesa pubblica in più e ha soprattutto parlato delle obiezioni contrarie. Per onestà intellettuale, come vedete, che spero di apprezzare, rispetto a tutti coloro che telefoneranno dicendo facciamolo, facciamolo, vi abbiamo proposto innanzitutto degli argomenti critici, perché i conti poi vanno visti nella loro fredda oggettività. Ma intanto ci ha raggiunto il sindaco di Parma, Pietro Vignali, che di questa esperienza, insieme a tante altre, perché Parma è una città che ha saputo costruire su sindaci particolari in questi anni una sua via concreta al buon governo, diversa anche dallo scontro tribale. Infatti questi sindaci sono espressione poi di liste cittadine molto forti, un po' anomale, diverse rispetto alle contrapposizioni tra coalizioni che dominano la politica nazionale, e facendo anche scelte controcorrente come questa del quoziente familiare. Buongiorno sindaco Vignali, grazie per averci raggiunto. Buongiorno. Entriamo subito nel merito di questa cosa. Come è nata, l'abbiamo un po' detto, ma quali passi concreti ha fatto l'esperienza di Parma per tentare di coinvolgere più città intorno a questo modello? Ma noi siamo partiti con la costituzione di un'agenzia per la famiglia 3 anni fa. Da lì abbiamo coinvolto un gruppo di esperti a livello nazionale per capire come fare a rivoluzionare completamente il sistema del welfare locale in funzione della famiglia, cioè mettendo veramente la famiglia al centro, considerando la famiglia stessa come la prima agenzia di welfare, quindi un soggetto che eroga servizi agli anziani, che eroga servizi all'infanzia, ai disabili, che sono quei servizi che oggi vengono erogati dall'amministrazione pubblica locale e che però non è più in grado, secondo me, di erogarli nella quantità e soprattutto nella qualità richiesta dai cittadini. I cittadini oggi chiedono dei servizi sempre più flessibili, sempre più personalizzati, c'è un problema di conciliazione, dei tempi, perché riguarda soprattutto la donna, e quindi c'è bisogno di rivedere un po' il sistema del welfare. L'amministrazione, il pubblico oggi eroga dei servizi che sono sempre più standardizzati e quindi da lì abbiamo ragionato, abbiamo fatto un documento quadro, siamo giunti il quoziente familiare, che si chiama proprio il nome di quoziente Parma, l'abbiamo deliberato in consiglio comunale, oggi è già in vigore e consente di, attraverso un particolare algoritmo che modifica l'ISE, consente di rivedere l'accesso ai servizi comunali, alle tariffe, in funzione del numero dei componenti della famiglia e anche dei carichi familiari che una famiglia ha, cioè una famiglia che ha più figli, una famiglia che si prende in carico un disabile o un anziano paga meno nell'accesso alle tariffe comunali. E da lì abbiamo coinvolto altre città, in particolare subito Roma. Alemanno si è fatto vivo dicendo che voleva copiare il modello di Parma, abbiamo firmato un protocollo a Roma insieme con Alemanno, poi abbiamo coinvolto anche altre città, in particolare Bari, Varese, e da lì se ne sono aggiunte altre 45. Insomma, la settimana scorsa a Parma quasi 50 sindaci si sono riuniti dicendo è ora di fare il quoziente familiare, è ora che il quoziente familiare venga fatto anche a livello nazionale, quindi che ci sia un fisco misura di famiglia. Ricordiamo naturalmente a chi lo avesse dimenticato che il comune, così come le regioni hanno per l'80% della loro spesa alla sanità, i comuni sono nell'ordinamento italiano il presidio territoriale che devono fare fronte in prima linea al più delle richieste di assistenza e servizi sociali. Quindi avere un criterio diverso da quello del fisco nazionale rispetto all'ISEE, richiamato dal sindaco, l'ISEE è l'indicatore di situazione economica equivalente a questo strumento che parametro standard che si applica in tutto il territorio nazionale per quello che in gergo tecnico si chiamano i min tested, cioè è uno strumento attraverso il quale l'ordinamento pubblico si mette in condizione di misurare diversa graduatoria nell'accesso ai diritti per l'erogazione di servizi sociali e pubblici, ed è però un indicatore molto arretrato, per così dire, anche dal punto di vista statistico come viene elaborato. Qui la scelta è di farne uno invece a Parma e nelle città che hanno poi aderito a questo manifesto, in cui la famiglia e la numerosità della famiglia diventano una cosa che invece che essere disincentivata è incentivata. Iniziano ad arrivare le prime telefonate degli ascoltatori, sentiamo qual è la loro esperienza, la loro impressione di fronte a questa rete, se estendere la carta di Parma, l'esempio di Parma in tutta Italia, cominciando, come spesso secondo me è preferibile fare, dal basso, quando è la politica dall'alto che non capisce che cosa bisogna fare. Sentiamo innanzitutto Massimiliano da Milano, che ne pensa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Milano, sono papà di 4 bimbi, la mia bimba più grande ha 11 anni, la mia più piccola ne ha 4. Innanzitutto mi sembra che il provvedimento di Parma sia, come dire, interessantissimo e ovviamente da estendere. Mi permetto di dire che io personalmente non credo, o meglio non chiedo un aiuto, perché non credo che ci siano, come dire, famiglie e persone che abbiano più bisogno di me di essere aiutati. Io lavoro, mia moglie lavora. Però mi sembra interessante il provvedimento di Parma perché nasce da un riconoscimento di una situazione oggettiva positiva, che è una famiglia, e in particolare una famiglia numerosa. E mi sembra sia un po' questo l'aspetto, esatto, che manca oggi. Cioè non si riconosce, come dire, il valore della scelta che ho fatto. Una scelta che è libera, quindi, come dire, non giudico chi decide di non fare figli o chi decide di farne uno solo o solamente due. Una scelta libera. Come mia è una scelta libera di farne 4. Però un riconoscimento a questa scelta andrebbe fatto, credo. Esatto, esatto. Penso anch'io che nel gioco delle deduzioni preferite dal centrodestra o delle detrazioni preferite dal centrosinistra, senza entrare nei particolari, l'ordinamento italiano dovrebbe comunque, a prescindere dalla più ampia riforma fiscale, di cui lo sapete, io sono un sostenitore, abbiamo parlato mille volte, dovrebbe comunque rigraduare l'effetto a favore della famiglia, della numerosità della famiglia, in maniera molto più profonda di quanto venga fatto oggi, perché in assenza del quoziente familiare le imposte si calcolano sull'intero reddito complessivo con un effetto disincentivante. Corrado da Modena, come la pensa Corrado? Beh, io sono pronto? Sì, pronto? Dica. Io sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore che mi ha preceduto, è interessantissimo l'esperienza di Parma, che estenderei ovviamente ad altri comuni, e per quanto mi riguarda io credo che appunto il nostro ordinamento dovrebbe ragionare su questo aspetto, mentre si dà la possibilità a un libero professionista, un imprenditore eccetera, di investire nella propria azienda, cioè magari scaricare dal proprio reddito, che ne so, l'acquisto di un Audi o di una BMW, non si dà la possibilità a tutte le famiglie altrettanto di scaricare dalle proprie tasse tutto ciò che spendono per portare un figlio alla maggiore età. Quindi questo secondo me proprio sta alla base di tutto, cioè si investe, diciamo tra virgolette, in una cosa banale come può essere l'auto aziendale, pensando che sia il futuro della nazione, ma non si investe invece su quello che è la reale crescita della nazione, cioè i propri figli. Grazie anche a Corrado, ora pubblicità. Eccoci tornati in studio, quoziente familiare, l'esempio di Parma che senza aspettare la riforma fiscale dall'alto mette la famiglia, la numerosità della famiglia al centro dei suoi parametri per individuare l'incentivo per l'accesso dei servizi offerti dalla città e diventa centro di una rete che di questi valori e di queste scelte fa pratica quotidiana partendo dal basso in attesa che sia possibile e compatibile con i conti pubblici una svolta alla francese, ma non solo alla francese. Capita praticamente che tutti i paesi europei e i maggiori paesi avanzati nei confronti della famiglia, della numerosità della famiglia, abbiano politiche fiscali molto più incentivanti del nostro paese. Abbiamo visto l'obiezione iniziale, alcuni dicono però questo fa un po' a pugni con la partecipazione femminile al mercato del lavoro, forse sarebbero meglio invece tasse selettivamente per il genere femminile più basse per le donne, per intanto recuperare questo gap, perché l'esperienza dei paesi avanzati ci dice che più partecipano le donne al mercato del lavoro, più si alza anche la natalità. Due strade in parallelo, ma intanto l'esempio concreto è quello di Parma e della rete dei comuni che intorno a Parma stanno condividendo questa nuova scelta. Sentiamo Lino dalla provincia di Lucca, ci dica Lino come la pensa. Buongiorno, io sono il responsabile del servizio finanziario di un piccolo comune della Toscana di circa 7.000 abitanti, Borgo Mozzano, il quale ha guardato con interesse all'esperienza di Parma che è stata pubblicizzata in televisione e sui giornali e ha deciso in qualche modo di aderire a questo network di comuni che applicavano questo nuovo criterio. La nostra esperienza in realtà è parzialmente diversa da quella di Parma, perché intanto l'applicazione del criterio è stata limitata alla tariffa di igiene ambientale, ma soprattutto abbiamo voluto adottare in modo, diciamo, autonomo, un po' diverso dal sistema ideato da Parma, il quoziente familiare. L'idea base però è la stessa, cioè quella di premiare in qualche modo dal punto di vista fiscale le famiglie che presentano un numero alto di figli oppure situazioni di disagio, ad esempio disabili in famiglia, figli particolarmente piccoli, situazioni di disagio anche lavorativo. Questa è un'esperienza di cui ancora non conosciamo i risultati, perché diciamo in itinere è stata attuata quest'anno. Però indubbiamente siamo convinti che questo segna un passo diverso rispetto al passato. Ora, gli ascoltatori sapranno che un po' in tutti i comuni stiamo affrontando situazioni in cui il costo della TIA, cioè la tariffa, il costo della tariffa rifiuti sta aumentando. Anche da noi è avvenuta la stessa cosa, ma abbiamo voluto rispondere inversamente, diciamo, a questo aumento, premiando quelle famiglie che in qualche modo avrebbero subito più degli altri il carico fiscale, rispondendo appunto con il quoziente Parma. Grazie. Grazie anche a Lino. Sarà poi interessante vedere negli anni come questo tipo di scelte condivise che si estendono a macchia d'olio verrà anche salutato dal consenso o dal dissenso magari degli elettori, però diventerà uno dei dati su cui misurare i consensi concreti degli amministratori. Ancora Francesco da Pavia, come la pensa Francesco? Buongiorno, io sono un papà di tre figli e volevo focalizzare l'attenzione su due punti, diciamo, al di là del fatto che ovviamente sono d'accordo su tutti i discorsi che riguardano la famiglia, perché in Italia insomma la situazione è quella che è. Però volevo evidenziare due esigenze che mi sembrano chiare. Una, tutela delle mamme lavoratrici. Credo che sia indispensabile una legge che permetta a qualsiasi mamma che abbia figli fino all'età 4-5 anni prima delle scuole elementari di richiedere all'azienda datrice di lavoro un part time, cosa che è assolutamente difficoltosa in qualsiasi tipologia di azienda italiana, piccola, media, grande, e che complica incredibilmente la vita delle mamme e spesso porta all'abbandono dopo il secondo figlio. Sono dati ormai assoluti. Esatto. Il secondo punto è perché si continua a ragionare dal punto di vista economico sempre con meccanismi complicati. Allora, in Francia, tanto per fare un piccolo esempio, quello del paese di riferimento, c'è un'aliquota agevolata per i prodotti per l'infanzia. Non costa niente, non costa burocrazia, tutti sono. Stiamo parlando di un'aliquota IVA agevolata sui prodotti. Esatto. I pannolini o il latte materno o sono elementi chiaramente destinati all'infanzia, non sono elementi di lusso, di benessere o di altro. Chiarissimo. Senza creare tante tariffe, chi più compra pannolini ha più figli, più. Cioè, grazie a Francesco. Quanto al suo primo esempio, cioè quello dell'estensione della garanzia delle condizioni per il part-time, ne abbiamo parlato più volte, a proposito per esempio del pacchetto di misure adottate in Germania nella scorsa legislatura dal ministro della famiglia, all'epoca una straordinaria figura, una donna con 7 figli che ha abbastanza rivoluzionato, adesso nel nuovo governo ha assunto un incarico ancora più importante e che ha toccato un pochino tanti punti nel mondo del lavoro connessi alla parità di genere, innanzitutto tra uomo e donna, ha esteso anche per esempio il congedo parentale maschile, oltre che il part time, con effetti molto concreti all'interno della società tedesca. È diventata una delle figure di riferimento addirittura del dibattito pubblico tedesco per il coraggio con cui ha saputo anche poi rispondere a molte polemiche che in Germania gli erano valsi questi provvedimenti. Ci ha raggiunto Chiara Saraceno, che è una delle figure di riferimento dei dibattiti pubblici nel nostro paese quando si tratta di famiglia, sociologia della famiglia e intersezione tra storia delle famiglie italiane, importanza della nostra società e come l'ordinamento pubblico poi e il dibattito pubblico darà una risposta. Io ringrazio la professoressa Saraceno e le chiedo come è stato possibile, cioè qual è la curva nella quale capire perché da decenni oramai a questa parte l'Italia, che poi passa come un paese ama la famiglia, mammoni eccetera eccetera, è diventato un paese così arretrato qualunque sia il punto di vista con cui analizzare come l'ordinamento effettua i suoi effetti disincentivo su famiglia, numerosità della famiglia, partecipazione delle donne al mercato del lavoro eccetera. In realtà a che cosa si deve? perché in realtà si continua a considerare la famiglia esclusivamente come una risorsa per la società e anche per le finanze pubbliche, una risorsa pressoché infinita, per cui dalla famiglia ci si aspetta solidarietà verso i vecchi, solidarietà verso i giovani e così via, e quindi gran parte delle politiche sociali sono fatte di rimessa, dando per scontato che ci sia sempre una famiglia in grado di reggere il colpo. Cioè, questo è un paese in cui della famiglia si continua a parlare con la L, con la F maiuscola, come se fosse una unica, omogenea, uguale per tutti, guai a toccare la famiglia, però poi per le famiglie concretamente esistenti si fa poco o nulla, perché anzi da loro ci si aspetta moltissimo. Ci ho detto, io non sono tanto d'accordo col quoziente familiare. Ma infatti abbiamo premesso le osservazioni con la professoressa Casarico, di chi critica dicendo forse sì, forse no, anzi no, c'è un problema di partecipazione familiare. Cioè, come dire, lei prima giustamente diceva che tutti i paesi europei hanno politiche a favore delle famiglie con figli molto più consistenti e anche coerenti del nostro paese. Però ci arrivano in modi molto diversi, anzi il modo certo prevalente non è quello del quoziente familiare, ma è quello degli assegni diretti alle famiglie per i figli, anche perché sono più universalistici, più uguali, le detrazioni fiscali, ma anche le deduzioni soprattutto, ma anche le detrazioni fiscali premiano di più i redditi più alti, ad esempio, certo, premiano di più le famiglie in cui c'è un'asimmetria tra i lavoratori, cioè tra chi guadagna e chi spende, e quindi hanno degli effetti controdistributivi molto forti. Assegni diretti, ad esempio la Svezia ha proprio eliminato totalmente le detrazioni per i figli, privilegiando esclusivamente l'assegno diretto. In Germania c'è l'opzione a seconda di che cosa sia più conveniente. Esatto, no, ci si arriva in maniera diversa. Poi naturalmente questo riguarda scelte ordinamentali nazionali, perché stiamo parlando in quel caso di deduzione, detrazione o assegni, sono quelli dell'universalità, per così dire, del rapporto ai servizi sociali. Diverso è l'esperienza dal basso, che in assenza di tutto questo dice, intanto per quello che il comune può fare, dare la risposta ai servizi o per le tariffe e per le tasse locali, adotto un criterio meno sfavorevole alle famiglie. Lei in questo caso che dice? Comunque dal basso, no, l'esperienza di Parma. Mi sembra molto importante, tanto più che nel nostro paese si usa quasi sempre il criterio del reddito familiare per accedere ai benefici più vari, soprattutto ai servizi sociali, cosa più o meno, come dire, accettabile, insomma, valutabile. Però se utilizza il criterio del reddito familiare, allora bisogna avere una percezione, una considerazione della famiglia più concreta, più adeguata, quindi quanti sono quelli che di quel reddito devono vivere e quanto conta, quanto devono pesare i figli in questo reddito. Questo mi sembra assolutamente ottimo, era già stato introdotto il principio quando è stato introdotto l'ISE, poi è stato, come dire, rivisto, riconsiderato soprattutto dai livelli locali, ma era questa l'idea. Se si tiene conto del reddito familiare, bisogna valutare molto bene quante sono le persone che di quel reddito devono vivere. Grazie alla professoressa Saraceno per questi minuti che ci ha dato. Avete sentito quanto la professoressa Saraceno, secondo me, bisognerebbe prendere alcune esperienze maturate nei decenni dell'osservazione, dello studio e dell'analisi delle situazioni comparate rispetto all'Italia e offrirgli ogni tanto la possibilità di, a prescindere, non mi interesserebbe che la professoressa Saraceno fosse eletta in uno schieramento, io metterei in mano per 2 anni, 3 anni alcune scelte concrete, dopodiché penso che il nostro paese tante professoresse Saraceno avrebbe incommensurabilmente da guadagnare, e lo dico pur non essendo molto d'accordo su alcune cose, però il nostro paese ha proprio un problema di competenze maturate che non sono messe in condizioni poi di tradurre in cose concrete e di cambiare il nostro paese. Piccolo commento a chiuso, sentiamo al volo Giuseppe da Monza e poi abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Giuseppe, lei che ne pensa dell'esempio di Parma e del nostro ordinamento generale sulla famiglia? Ma guardi, l'esempio di Parma è bellissimo ed è giusto che venga avanti, io però volevo portare Rapidamente una mia esperienza. Io ho fatto una tesi nel 1982 per laurearmi, sono un avvocato sul quoziente familiare. Sono passati 8 anni e se ne parla ancora, e dietro la scelta di non fare il quoziente familiare c'è una scelta molto precisa di questo paese di non investire sulla famiglia e di non investire sui giovani, perché tutte le obiezioni che si fanno al quoziente familiare sono tutte facilmente superabili con una serie di modularità differenti se si volesse politicamente lasciare le famiglie libere di crescere. In realtà si preferisce dare pochi assegni familiari e non fare niente sul quoziente familiare, perché, come dice giustamente la professoressa Saraceno, in Italia la famiglia e il lavoro sono delle risorse da spremere. Sì, è proprio così. Io ci aggiungo un elemento sul quale torneremo dopo le informazioni sulla circolazione stradale. È anche stato un regolamento di conti ideologico di una parte politica laica nei confronti della tradizione cattolica. Ultima parte della trasmissione di oggi dedicata al quoziente familiare, l'esperienza di Parma che si diffonde tra i comuni italiani. Abbiamo affrontato alcuni punti per ricostruire il perché il nostro ordinamento fiscale a livello nazionale è rimasto così indietro rispetto agli altri su famiglia e figli, e quali sono i punti concreti anche di un dibattito e di critiche, di propone altre strade per assicurare gli stessi obiettivi. Abbiamo ancora con noi il sindaco di Parma e la professoressa Casarico, con loro concluderemo, sentiamo gli ultimi ascoltatori, cominciando da Carla. Carla da Livorno, anche perché non abbiamo praticamente sentito voci femminili tra gli ascoltatori di oggi. Carla, come la pensa? Buongiorno, io la ringrazio, mi tiene tanta compagnia, io viaggio tanto in macchina, faccio un lavoro particolare e ho deciso di intervenire in quanto donna, perché non avevo sentito nessuna voce femminile a tali proposito. La ringrazio, sì. Io le dico la verità, io faccio un lavoro particolare perché lavoro in un'agenzia di lavoro, per cui ho a che fare con contratti, con assunzioni di persone, e le aziende forniscono in gran parte uomini alle donne per motivi del maternità e così via. È difficile che decolli il part-time in Italia, questo secondo me è una grave mancanza proprio del nostro paese. Ed inoltre trovo inutile, tra virgolette, parlare di queste cose quando magari non ci sono servizi proprio per la famiglia. Io le porto la mia esperienza personale, ho una figlia che compierà a breve 6 anni e io dagli 0 ai 6 anni ho speso circa tra i 16.000 e i 18.000 euro per mandarla a scuola, per cui è difficile andare avanti in queste condizioni, le dico veramente la verità. Mi rendo conto, Carla. Io ammetto che c'ho anche un'altra questione, a me mancano molto i figli, io evidentemente ho sbagliato molto nella mia vita privata, io litigo molto con uomini e donne, miei coetanei e miei amici, perché temo anche che ci sia una curva culturale, cioè il fatto che ci si prepara e si decide di avere dei figli solo quando siano 36, 37, 38 anni, io non ci capisco nulla, ma a me sembra una scelta completamente sbagliata. Naturalmente tutti mi dicono zitto tu che non ne hai, quindi hanno ragione. Massimiliano da Roma, lei come la pensa? Buongiorno Oscar, io ho 37 anni e ho due bambini, quindi giusto per confermarle quello che invidia. Detto, lei. Invidia, sì. Sì, invidia fino a un certo punto, nel senso che sono contentissimo e non rifarei la scelta, però è una scelta in molti casi di sacrifici, perché io sono fortunato perché sono dirigente d'azienda, quindi ho un buon stipendio, però mia moglie che diciamo è precaria evolve interamente il suo stipendio per mandare a scuola i bambini, e parlo ovviamente della scuola che va da 0 ai 6 anni, ho due figli, uno di un anno e mezzo e uno di 4 anni. Pochi asili nido pubblici. Non esistono di fatto, cioè nel mio comune, che è anche un comune abbastanza ricco, io sono in provincia di Roma, c'è una copertura che è scarsa un terzo dei posti necessari. Per cui bisogna ricordare. E questo dice tutto, perché il problema è che noi abbiamo in più puntate affrontato il fatto che solo in alcune poche aziende italiane, di solito dove ci sono manager donne, questa deficienza assoluta dell'offerta pubblica sul territorio italiano, e che oggi non può chiedere ai comuni che hanno pochi trasferimenti, tra tutti, di inventarsi chissà che cosa, troppo pochi casi, le aziende poi sono in grado di fare sussidiarietà dal basso, solo laddove hanno una sensibilità tale che di solito ci sono delle manager donna su questo. Allora, sindaco Vignali, alla fine di questa superficiale carrellata, che però dimostra come tantissima attenzione in Italia vada a quello che avete fatto voi e con la rete di comuni che state mettendo in piedi, che sviluppi si possono ancora immaginare su questa, cioè fino a dove può arrivare in realtà la vostra esperienza e che impressione ha nei rapporti con la cittadinanza a Parma di quanto questo cambi davvero in concreto, nei limiti del possibile ovviamente, non siete lo Stato, ma quanto può cambiare in concreto all'interno della città nel medio-lungo periodo un problema di fondo come quello della famiglia e dei figli? Io credo che possa veramente risolvere le problematiche del welfare, perché le città stanno cambiando, perché la società sta cambiando, ormai abbiamo delle città in cui aumenta il numero degli anziani, dove aumenta l'immigrazione, dove anche la ricchezza si sta riducendo e dove aumenta la domanda dei servizi alla persona. Le città sono sempre meno ricche, hanno sempre meno soldi e quindi si crea una forbice molto pericolosa, dove da una parte aumenta la domanda dei servizi alla persona dal punto di vista quantitativo, dall'altra cambiano anche i bisogni e le aspettative, c'è una richiesta di servizi sempre più personalizzati, sempre più domiciliarizzati. E quindi io credo che in prospettiva le amministrazioni pubbliche, i comuni faranno fatica a dare questa risposta a questa domanda che sta cambiando e sta crescendo dal punto di vista quantitativo. L'unico modo in prospettiva nel medio e lungo periodo è veramente quello di mettere la famiglia al centro del sistema del welfare e invece di prelevare le risorse e poi restituirle con dei servizi standardizzati, io credo che la soluzione migliore sia quella di lasciare le risorse alle famiglie e fare in modo che sia la famiglia a tenere il bambino creando un servizio parallelo all'asilo nido. Noi a Parma abbiamo fatto le Tagesmutter. La Tagesmutter è un sistema alternativo all'asilo nido. La Tagesmutter è una mamma che tiene fino a 4 bambini in casa propria, viene fatto un corso e però crea un servizio su misura per le esigenze della donna. Noi diamo un voucher di conciliazione a tutte le famiglie che invece di portare il bambino all'asilo lo danno alla Tagesmutter. Con la differenza, ecco, però, questa formula del voucher per lasciare alle famiglie le risorse da esercitare in libera scelta per soddisfare i propri bisogni, e naturalmente questo strumento è la roba che fa inorridire lo statalista che pensa all'universalità del servizio pubblico gestito da dipendenti pubblici come vero garante della realizzazione dei diritti e dell'universalità individuali. È chiaro che la sussidiarietà personalista che sceglie la via di mettere la persona, il cui diritto naturale viene prima di quello dello Stato, al centro della scelta, è una strada filosoficamente, politicamente, non dico ideologicamente perché per un'ideologia è un'altra cosa, completamente diversa. Questa è una scelta liberale, lo dico non perché per me è sovraordinata. Io aderisco alla cosa per cui la persona e quindi la famiglia in quanto istituzione nella quale la libertà della persona, il diritto alla vita, poi per me c'è anche il diritto alla proprietà, ma il diritto alla vita si esprime in maniera precedente a quello della richiesta di ogni ordinamento, è per me la scelta prioritaria. Lo dico con pieno rispetto verso chi non la pensa ovviamente così. Vincenzo da Napoli, lei come la pensa invece? Buongiorno. Una delle cose che hanno insegnato a noi all'università era il principio di neutralità dell'imposta, nel senso che in riferimento al tipo di soggetto l'imposta deve essere neutrale. Da questo punto di vista io sono un commercialista e vivo la difficoltà che molti clienti, per allargare proprio il concetto di detrazione fiscale, hanno a carico nipoti, hanno a carico, immaginando certo, anche la situazione di Napoli. Questo certo non crea neutralità con le altre famiglie. Il discorso è che in Italia, come io l'ascolto tutte le mattine, bisognerebbe riordinare tutto il sistema tributario e sarebbe anche il caso di farlo in questo periodo, cercando di provocare un sistema tributario in cui le famiglie, ma le persone come soggetto di imposta, possono portare in detrazione tutte le spese, così come c'è in America, in modo tale da creare anche dei conflitti di interesse tra chi vende e tra chi acquista. Questo potrebbe permettere... Grazie a Vincenzo che ci ha sottolineato anche il fatto che un quoziente familiare un po' così altrimenti può creare problemi al single nell'ordinamento, e questo è anche un altro punto di vista. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, mi dispiace perché Alessandra Casarico la volevo farla reintervenire alla fine, ma il tempo è tiranno, mi batto il petto e mi scuso con lei. Ringrazio la professoressa Saraceno, ringrazio il sindaco di Parma Pietro Vignali, e il mio incoraggiamento è a continuare a battere questa strada coinvolgendo ancora più comuni. Grazie in regia Carmelo Lauricella e Alessandro Marcotulli in redazione. La linea del giornale radio, appuntamento con noi a domani.